Ah, non so dove è sparito. Ma com'è che era successa la storia? È andato via quello lì. Non so dove. È andato dopo, non veniva più. Ma parlava con nessuno dopo, perché li abbiamo dato per dormire qua. Puoi dormire qua, solo che deve venire dormire la sera, perché gli ho detto io, quando mettiamo con peso vai fino a Klaus e vai via. Ma lui era un irregolare? Ah? Lui era proprio un ragazzo che è venuto con i barconi, no? Lui era proprio uno clandestino. Senza casa, senza nulla. Dopo è andato via, non so dove dormire. Ma poi avevate preso anche il cibo, no? Cibo, macchinetta, io 15 euro che compro. Macchinetta, cibo, tutto. Solo che lui, non so dove è sparito. Dopo io gli ho detto, guarda, durante quando lavoriamo noi, mattina presto, vai via, dopo la sera torni. C'è più posto dove dormire, perché se ti becca contro l'acqua, pensano certo. che ti chiamano noi in vera, capito? Certo. Dopo lui, non lo so dove è. Non l'ho visto più perché gli ho lasciato anche un po' di roba, solo che gli ha dato IVA, e abbiamo, io ho buttato. Io ho macchinetta, IVA gli ha tagliato i capelli. Ibra gli ha tagliato i capelli? Ah, guarda, <sapete. ride> Ma quando? A che ora gli ha tagliato i capelli? Ma fino a quando c'era un mercato stradale lì, sono andato io, gli ho comprato una macchinetta lì. 15 euro gli ho pagato quella macchinetta. Che bello! Ma se, dopo ti dispiace, solo che lui era proprio... La voleva mi sembra proprio. Dicevo? Sto pensando. Io gli ho detto, figo, fai finta che fai pulizia stamattina, magari ti dà quello lì che cosa. Ma lui aveva voglia di dormire, basta. Non era un lavoratore. Sì, però siete stati bravissimi a lasciargli. Ma ti dispiace, non avevi così. Beh, devo fare quella vita qua, dormire meglio dormi tu, credo. Capito? Sì, hai voglia. Tu quando sei arrivato qua in Italia? Quanti anni fa? 2002. Era appena finita la guerra? Ah, nel 99 è finita la guerra. 99. Nel 2001 ottobre sono arrivato giù a Roma. E perché l'Italia? E non magari altri paesi così? Ma perché? No. Da noi comunque la volta che prima c'era da passare con la guerra. Ecco. Guarda. Ma come è entrato bene? No, ma per fare la scatola qua. Così, adesso. Aspetta che ti do. No, lascia, no, li metto dopo la sistema. Dopo sistemo questa perché devo vedere.